ha senso sprofondare in un ciclo vizioso dell'economia in cui, aumentando le tasse, riducendo la spesa pubblica, sostanzialmente l'economia non riparte, e come dicono gli americani e gli inglesi, se l'Europa continua così sarà il vaso di coccio nella ripresa mondiale? Direi che non ha assolutamente senso, non ha senso adeguarsi tutti alla logica del bottegaio tedesco, perché questo è sostanzialmente l'elettorato a cui la Merkel guarda come punto di riferimento, al quale ha paura di chiedere o di dire che un po' dei soldi tedeschi vanno a tutti gli altri. Se noi ci faremo governare dal bottegaio tedesco avremo una recessione che assomiglierà a quella dell'ultima parte degli anni 30, cioè quando sembrava di essere fuori dalla crisi e poi ci è arrivata la mazzata nel 1937. Allora, per evitare questo bisogna che questo tappo tedesco venga tolto. Se non viene tolto, purtroppo dovremo prendere in considerazione altre misure. In fondo quello che si diceva, la Germania che esce dall'euro, magari anche solo temporaneamente per poi aggiustare i cambi e rientrarci dopo, potrebbe anche essere una soluzione di emergenza che nessuno vuole, ma che potremmo essere forzati ad adottare, perché ne va della nostra, diciamo pure, sopravvivenza economica in un certo senso contro il benessere del bottegaio tedesco.